Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine, andremo avanti fino alle ore 21.30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale per questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine anche oggi 18 settembre 2025, il programma curato dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questa band storica inglese, una band che si è formata nei primi anni 80, che si è sciolta quasi alla fine degli anni 80 per poi riformarsi all'incirca metà della seconda decina degli anni 2000. E comunque noi ora andiamo all'ascolto di un album che è uscito nel 2010, dove sono state recuperate delle audiocassette della band prima di far uscire un loro album datato 1984, e appunto queste demo tape che uscirono nel 1982, recuperate come ho detto in un album, più l'aggiunta anche di alcuni live del periodo. Comunque noi stiamo parlando degli Antisect, band inglese, e ora ci ascoltiamo un paio di brani. Yeah. Sì, un saluto a chi ci ascolta, bentornate e bentornati a Zernis Magnetics. Allora, io inizio la trasmissione di oggi diciamo in maniera diretta, e cioè dando questa notizia. Allora, ricordo che il 21 febbraio 2023 c'era stato un attacco contro il Tribunale di Pisa, e era un'azione praticamente avvenuta nel contesto della mobilitazione contro il 41 bis, l'ergastolo, e in solidarietà con Alfredo Cospito, che all'epoca era già aveva fatto già tantissimi giorni di sciopero della fame a oltranza, 120 giorni specificamente, e a distanza così di questi 2 anni e mezzo è partita questa operazione repressiva che pare abbia il nome di Delivery. E appunto lo scorso 11 settembre nei comuni di Carrara, Montignoso, Pisa e Sarzana c'è stata un'operazione di polizia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo del capoluogo toscano e condotta dalle Digos di Pisa e Firenze, e nell'ambito di questa operazione repressiva sono stati arrestati a Pisa e a Carrara un compagno e una compagna, i quali adesso si trovano agli arresti domiciliari con tutte le restrizioni, quindi divieto di corrispondenza e di comunicazione, insomma in generale di visite. E l'accusa, questi due compagni, questa compagna e questo compagno sono inquisiti per sono accusati di associazione sovversiva con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. E appunto da parte nostra di Zardins va chiaramente tutta la solidarietà a questi compagni, e è proprio questo il modo, così ci sembrava il modo più giusto per iniziare l'appuntamento di oggi, durante il quale parleremo proprio di terrorismo, cioè di per chi ha ricevuto la promo. Appunto abbiamo utilizzato questa breve frase: terrorismo è un'arma del terrore di Stato che ai piani di guerra si accompagna. Questo era appunto una frase estrapolata dal periodico anarchico Disfare per la lotta contro il mondo guerra, il numero 2, appunto estate 2025, è uscito da poco. E in questo numero, insomma, della rivista c'è una analisi molto, così, una disamina diciamo anche storica del concetto di terrorismo. Viene analizzata anche l'appropriazione da parte del potere di questo concetto, e ci sembrava importante, interessante insomma parlarne stasera, anche perché abbiamo avuto modo, insomma, svariate volte di discutere di questa faccenda qua. Ne abbiamo parlato anche recentemente del discorso, insomma, il concetto di terrorismo, l'accusa più che il concetto, cioè diciamo il concetto giuridico di terrorismo, quindi l'accusa di terrorismo utilizzata come lasciapassare dalle forze della repressione per diciamo colpire in maniera virulenta. E ne parlavamo appunto recentemente con i compagni dell'Aquila, che hanno organizzato il blocco della Leonardo, tra l'altro ben riuscito, all'Aquila lo scorso 12 settembre. Ne parlavamo di questo a proposito di Anan Yaesh e degli altri compagni palestinesi appunto inquisiti sempre per presunti reati con finalità di terrorismo. E ne parlavamo un anno fa circa, se non sbaglio, più o meno, con Suad Janem, appunto una combattente palestinese di vecchia, diciamo, insomma, una persona che ha fatto le lotte, le intifade comunque già da giovanissima, una persona che ha una certa età adesso, la quale è passata per le carceri, insomma ne ha subiti di tutti i colori dallo Stato di Israele, e sempre sotto questa appunto sempre accusata di questa cosa del terrorismo, però non è solo una cosa che riguarda la Palestina. Beh, abbiamo visto la faccenda dei compagni, della compagna del compagno di cui ho appena parlato, ma sappiamo che con questa accusa, diciamo, negli ultimi anni polizia e magistratura stanno così distribuendo decenni e decenni di carcere a un sacco di compagni e compagni anarchici. E non solo. E poi esiste comunque in Italia, diciamo specificamente, esiste una questione legata a terrorismo, lotta armata a terrorismo, che è sempre rimasta in sospeso nelle riflessioni. E per ultimo, ma non ultimo come importanza, ma insomma vale la pena di nominare anche questo, la questione di violenza, utilizzo della violenza o non violenza, violenza come monopolio di Stato, eccetera, utilizzo della parola terrorismo rovesciata contro lo Stato, appunto terrorista e lo Stato, eccetera, è una questione non banale, insomma, non è solo una questione così di parole. Ed è una questione importante nella riflessione, insomma, delle anarchiche e degli anarchici, quindi è importante anche riprendere un po' questa riflessione. Io direi che mettiamo ancora un pezzo e poi iniziamo più nello specifico. Eccoci di nuovo in voce. Allora, appunto, il contributo, l'approfondimento di cui volevo così leggere, commentare qualcosa, si intitola Terrorizzare e reprimere. Appunto, in questo approfondimento praticamente gli autori cioè ci dicono, parlando proprio del termine terrorismo, praticamente lo Stato democratico, per esercitare la sua forza coercitiva, si dota, ha necessità di argomentazioni forti, diciamo, che risultino condivisibili da parte della cosiddetta opinione pubblica, no? Cioè in pratica deve intimorire, fare sbigottire l'opinione pubblica, e per fare questo attuano appunto gli stati democratici un rovesciamento semantico di determinati concetti, in modo che attraverso questo rovesciamento ci sia una carica negativa che cada direttamente sul soggetto individuale, sul singolo o sul gruppo da reprimere. Il caso di terrorismo è proprio, ci dicono gli autori di questo articolo, eclatante. Difatti, il termine terrorismo viene coniato durante l'esperienza del regime del terrore nella Francia a partire dal 1793, appunto il periodo del terrore, quindi teste ghigliottinate secondo la decisione del Comitato di Salute Pubblica, c'erano i giacobini, il governo giacobino in quel momento in carica. Allora ci dicono i neologismi francesi terrorisme e terrorisé, creati a partire dal latino terror, iniziano a circolare in Europa proprio col significato di azione del potere politico di incutere terrore nei confronti dei cittadini attraverso la costrizione e l'uso illegittimo, indiscriminato e imprevedibile della forza. Quindi il terrore sulla base di questa, il terrorismo sulla base di questo, di questa definizione è proprio è proprio un sistema di governo, non è una cosa così irrazionale, è un vero e proprio sistema di governo, appunto. Nasce come connotante un periodo di emergenza, no? Però in realtà questo periodo di emergenza, cioè i mezzi terroristici di Stato utilizzati, diciamo, per affrontare i periodi di emergenza, tendono a allargarsi, a dilagare e a diventare eterni e a diventare definitivi. E questo lo vediamo anche la questione delle emergenze del diritto penale del nemico, ad esempio, dei provvedimenti, insomma, legislativi per combattere le emergenze. Insomma, abbiamo svariati esempi, no? anche qua in Italia. Solo basta pensare al 41 bis, ex articolo 90, ma insomma perfezionato dal 41 bis. Basta pensare al fatto che il Dipartimento, la Direzione Nazionale Antimafia, ha aggiunto dal 2015, se non sbaglio, anche il termine di antiterrorismo, no? All'interno, proprio per creare questa gabbia di discriminazione, di disumanizzazione in un certo senso, cioè di allontanamento, diciamo, dall'umanità dei soggetti accusati di questi, di reati appunto di mafia e di terrorismo. Ci dicono i compagni di Sfare in questo articolo: si delineava così per la prima volta una fondamentale presa d'atto, l'esistenza di una divaricazione tra il fine dichiarato del terrore, cioè punire alcune persone o alcuni gruppi ritenuti colpevoli di attentare al regime o alla vita sociale, e il fine vero scientemente attuato, quello di controllare mediante la paura l'intera società, e quindi una spia in ogni casa, un traditore in ogni famiglia, un assassino in ogni tribunale, un infame, insomma, in ogni dove, no? Per seminare il terrore e bloccare ogni tipo di opposizione. Quindi abbiamo detto, il concetto di terrore e terrorismo è un, rappresenta un metodo di governo, quindi possiamo dire che è connaturato allo Stato stesso. E poi però questa analisi procede e, diciamo, passando dal 1700-1800 arriviamo al Novecento, agli inizi del Novecento, colonialismo europeo. Le potenze europee si servirono dello stigma legato all'impiego del termine terrorismo contro quelle popolazioni asiatiche e africane che provavano a ribellarsi alle politiche coloniali di sterminio e depredazione delle risorse. In alcuni casi l'accusa di terrorismo aprì la strada a veri e propri genocidi, come avvenne in Namibia per la popolazione Herero trucidata dall'esercito tedesco e appunto un generale responsabile del genocidio, Lothar von Trotha, il genocidio che è avvenuto tra il 1904 e il 1907, scrisse: «Io credo che la nazione come tale, cioè gli Herero, debba essere annientata e se questo non è possibile con misure tattiche, debba essere espulsa dalla regione con mezzi operativi ed un ulteriore trattamento specifico. L'esercizio della violenza fracasserà il terrorismo e anche se con raccapriccio fu ed è la mia politica. Distruggo le tribù africane con spargimento di sangue e di soldi. Solo seguendo questa pulizia può emergere qualcosa di nuovo che resterà». E ricordiamo anche che Ben Gurion diceva appunto, aveva scritto nei suoi diari: noi dobbiamo distruggere completamente, annientare completamente i palestinesi e mandarli via, non deve più rimanere nemmeno un palestinese in questa terra che noi conquistiamo, e dobbiamo solo trovare il momento giusto per farlo, magari in occasione di una guerra potrebbe essere l'occasione più propizia perché questo avvenga, perché questo sterminio avvenga. E questi commenti, cioè questa insomma analisi dei diari di Ben Gurion è stata fatta dallo storico Ilan Pappé. E quindi abbiamo detto il caso della popolazione Herero in Namibia. Dietro assimilazioni in cui l'intera popolazione senza alcuna distinzione tra combattenti e civili veniva colpita, stava la concezione e teorizzazione di una modalità di conflitto integrale ed assoluto, una modalità che con la prima guerra mondiale diventerà prassi. Nel 1914 il generale e teorico militare tedesco Colmar von der Goltz, che all'epoca era, ci dicono, più letto di Clausewitz, nominato governatore del Belgio, sostenne con chiarezza la necessità di punire esemplarmente gli atti ostili non solo per la colpa, ma anche per l'innocenza, inaugurando la consuetudine di colpire per chilometri i villaggi e i luoghi abitati attorno alla zona di un attentato. Sorte analoga spettò ai Mau Mau in Kenya, massacrati dagli inglesi durante gli anni 50 del secolo scorso. Col pretesto della lotta al terrorismo divenne possibile anche in questo caso legittimare metodi terroristici come i campi di concentramento e l'uso sistematico dell'elettroshock. Anche il colonialismo italiano non fu da meno nel dispensare campi di concentramento, stupri di massa e gas nervino in Africa come nei Balcani. Quindi ci dicono: col trascorrere del tempo dunque, i diversi stati europei operarono un progressivo rovesciamento semantico del concetto di terrorismo. Da metodo di governo utilizzato verso i governati si trasformava in metodo di lotta adottato dai governati stessi contro le istituzioni e i suoi funzionari. Quindi appunto i terroristi diventano gli oppositori ai vari regimi e allo Stato. E una pausa musicale e poi riprendiamo. Stiamo ascoltando questa band romana, loro sono i Drumspell, dal loro unico album uscito nel 2020. E tra l'altro volevo anche dire, ovviamente, il titolo è Barbarie Futura, Drumspell. E allora dicevamo, il terrorismo è un dispositivo culturale e giuridico esteso, sempre più esteso, che viene appunto scagliato, diciamo, contro una, non solo contro i sovversivi, ma anche contro i dissidenti, ma anche contro gli esclusi, insomma, contro le eccedenze, diciamo. E proprio è così esteso perché è anche altrettanto indeterminato. E magari se ne parla, insomma, ne abbiamo parlato anche in altri Zerdings, però ricordo anche un po' di esempi, diciamo, occidentali, a parte il discorso del genocidio a Gaza presentato come operazione contro i terroristi di Hamas. Ormai anche questo tormentone dei terroristi di Hamas veramente non si può più sentire, è una litania veramente priva di significato. Ma ricordiamo che, ad esempio, negli Stati Uniti anche gli attacchi contro le concessionarie Tesla vengono viste come atti di terrorismo, quindi sabotaggi di questo genere, no? Rivolti a oggetti inanimati e non esseri viventi, per dire, però vengono bollati come terrorismo. In Francia, dal 7 ottobre in poi, 23 in poi, molti attivisti, sindacalisti, ma anche, insomma, cittadini che hanno dato sostegno hanno dimostrato solidarietà verso la Palestina, vengono accusati di apologia di terrorismo. In Germania l'organizzazione solidale con i prigionieri palestinesi Samidun è stata messa al bando, appunto, perché ritenuta antisemita, con la solita mistificazione dell'antisionismo in antisemitismo, ma anche per il sostegno a presunte organizzazioni terroriste. Nel Regno Unito ne abbiamo parlato, mi pare, l'altra settimana, abbiamo il discorso di Palestine Action, appunto, che viene definita come organizzazione terroristica. Ci sono appunto dei militanti di questa organizzazione in carcere per questo. E poi appunto, come si diceva prima, lo Stato italiano, questo allargamento della Direzione Nazionale Antimafia, divenuta anche antiterrorismo, e poi appunto nel 2015, dicevo giusto, e poi recentemente col decreto legge sicurezza, questa introduzione del reato del terrorismo della parola, quindi detenzione di materiale con finalità di terrorismo, più vago di così non si sa. E anche l'utilizzo vigliacco di questa accusa di terrorismo nei confronti di Anan Ali e Mansour, come per far rientrare dalla finestra, diciamo, quello che era uscito dalla porta, cioè la richiesta di estradizione da parte dello Stato di Israele. Ma torniamo alla disamina storica. Allora, siamo arrivati, diciamo, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, e quindi da metodo terrorismo, da metodo di governo a strumento di lotta, diciamo, adottato dai governati contro le istituzioni statali e i suoi funzionari. Gli autori dell'articolo ci parlano dell'articolo che si intitola Terrorizzare e reprimere, ci parlano di questa convenzione per la prevenzione e repressione del terrorismo elaborata a Ginevra nel 1937. Allora, secondo questa convenzione sono terroristici i fatti criminali diretti contro uno Stato e i cui fini o la cui natura è atta a provocare il terrore presso determinate personalità, gruppi di persone o il pubblico. Allora, in questa definizione ci fanno notare il terrore di determinate personalità e quello del pubblico, cioè della generalità, diciamo, delle persone, sono considerati equivalenti. E appunto questa definizione viene coniata proprio nel medesimo anno in cui la cittadina basca di Gernika viene sottoposta a un bombardamento a tappeto a opera appunto della Luftwaffe, del battaglione dello squadrone volontario Condor nazi, e supportati anche dall'aviazione legionaria fascista italiana. Diciamo che alcuni, cioè, fatti come questo di Gernika comunque vengono, ci dicono gli autori dell'articolo, insomma, colpiscono l'opinione pubblica, no? non si parla in un certo senso di azione terroristica da parte appunto dell'aviazione per distruggere Gernika, ma non solo per distruggere Gernika come città, ma per annientare, diciamo, lo spirito del popolo basco in lotta contro la dittatura. E quindi in quel momento lì c'è ancora una certa sensibilità e non c'è, si stenta, diciamo, a mettere insieme lo Stato con la popolazione, cioè lo Stato è una cosa, la società è un'altra cosa, no? Non viene, sì, non c'è insomma mimetismo tra i due concetti. E allora, andando avanti però negli anni, appunto a partire dagli anni 70, negli anni 70-80 nell'Europa occidentale e in Italia in particolare, si compie questo definitivo rovesciamento semantico del concetto di terrorismo, con lo scopo di, sto leggendo dall'articolo, di contrastare da parte dell'ordine statale l'insorgenza politica e sociale interna sviluppatasi in quel medesimo periodo. Allora, a partire dagli anni 70-80 del Novecento, terrorista è chi svolge un'attività finalizzata ad un cambiamento radicale dell'ordine costituito. E quindi cambiamento radicale dell'ordine costituito e versione dello Stato. Facciamo un salto e andiamo e ritorniamo negli Stati Uniti, 1981, elezione alla presidenza degli Stati Uniti di Ronald Reagan, e riprende decisamente vigore, proseguendo nel solco già tracciato da precedenti amministrazioni, l'iniziativa politico-ideologica antisovietica, sostenuta dalla tendenza ad accrescere fortemente il budget militare e ad attaccare ideologicamente l'URSS proprio mediante la denuncia di terrorismo come merce sovietica, strumento d'aggressione ai danni del cosiddetto mondo libero. Il terrorismo andava concepito come un fenomeno guidato dall'alto, in questo caso appunto l'URSS, considerato una sorta di stato sponsor, che lo stesso Reagan, con un termine destinato ad essere più volte ripreso in seguito, chiamò stati canaglia. Ecco, e su questa scia qua arriviamo al 1986 con la pubblicazione del libro Il terrorismo, come l'Occidente può vincere, un libro edito da Benjamin Netanyahu, che contiene gli atti di una conferenza organizzata dal Jonathan Institute di Gerusalemme. Allora, in questa Netanyahu non solo fa l'edizione di cura l'edizione, cioè produce l'edizione di questo libro, ma ne cura anche l'introduzione. E dice, descriveva la situazione politica mondiale come una lotta in corso tra civiltà e barbarie. Nella comunità internazionale, osservava, c'è un sufficiente consenso circa il ruolo di URSS e OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, nel supporto al terrorismo internazionale, e anche una discreta sensibilità rispetto al pericolo incarnato dalla Repubblica Islamica dell'Iran. Ma ciò che manca è una risposta comune ai terroristi, dice Netanyahu, e ai loro sponsor, a causa di un'insufficiente concettualizzazione del fenomeno. È assurdo, egli affermava, paragonare un atto terroristico con le perdite di civili in guerra, perché queste ultime sono prodotte da atti casuali e involontari. Quello che stanno sostenendo, no, anche ora relativamente ai crimini di guerra dell'IDF. Mentre i terroristi sono invece nel caso dei terroristi, appunto, si tratta di scelte volute e calcolate, quindi i terroristi, dice Netanyahu, sono impuniti che attaccano obiettivi indifesi. Per Said, Edward Said, la definizione di Netanyahu dipendeva da un assioma a priori: noi non siamo mai terroristi, noi israeliani. Sono loro, i musulmani e i comunisti, che lo sono. Non importa che cosa abbiano fatto, loro lo sono e lo saranno sempre. Ci dice Said, questa nuova visione tendeva ad obliterare la storia e la stessa temporalità nel tentativo di creare un nemico essenzializzato, isolato dal tempo, dalla causalità, dalle azioni compiute in precedenza, e quindi a disegnarlo come ontologicamente, gratuitamente interessato a scatenare il caos. Di conseguenza, la giustificazione spuria di combattere il terrorismo legittima ogni atto di violenza commesso in suo nome, cioè commesso nel nome della lotta al terrorismo. La seconda amministrazione Reagan adottò il terrorismo così inteso come nuovo nemico globale e lo considerò un incentivo per giustificare il terrore come arma di reazione. Allora, sul piano istituzionale formale sarà poi la risoluzione del Parlamento europeo del 30 gennaio del 1997 ad adottare ufficialmente una definizione di terrorismo in linea con il già menzionato rovesciamento semantico, e cioè, ve la leggo, costituisce atto di terrorismo ogni delitto commesso da singoli individui o gruppi attraverso la violenza o la minaccia della stessa e rivolto contro un paese, le sue istituzioni, la sua popolazione in generale o contro specifici individui, il quale, motivato da aspirazioni separatistiche, quindi le lotte di liberazione nazionale, da concezioni ideologiche estremiste, quindi istanze di rivoluzione sociale, o dal fanatismo, quindi presunti, diciamo, integralismi religiosi, o ispirato a moventi irrazionali e soggettivi, nichilismo, mira a sottomettere i poteri pubblici, alcuni individui o gruppi sociali o più in generale l'opinione pubblica ad un clima di terrore. Praticamente l'analisi di questa risoluzione del Parlamento europeo evidenzia che c'è un intenzionale mescolamento di elementi originari e quindi terrorismo come metodo di governo e attuali e quindi utilizzo dei metodi terroristici per sconfiggere appunto il terrorismo stesso e invece questo mescolamento insomma di elementi originari e attuali della nozione di terrorismo, quindi terrorismo come strumento di lotta contro lo Stato. Magari finisco ancora questo concetto qua rispetto al diritto internazionale, poi facciamo ancora una pausa musicale. Allora abbiamo l'11 settembre 2001 come diciamo così date significative, quindi attentato alle Torri Gemelle di New York, quindi una praticamente una crescita mostruosa della guerra al terrore appunto, e l'Unione Europea sente l'esigenza di elaborare una disciplina sul terrorismo che imponesse maggiori obblighi agli stati membri e nella sua valenza repressiva dal codice viene recepita appunto che vi leggevo prima, questa decisione UE viene recepita dal codice penale italiano con l'introduzione avvenuta nel 2005 e all'indomani degli attentati alla metropolitana di Londra dell'articolo 270 sexies. In base a questa definizione anche un'avvertenza sindacale radicale, uno sciopero e azioni di questo genere possono essere considerati come un atto terroristico contro l'ordine costituito. Quindi il diritto internazionale ha oggi due pesi e due misure per il terrorismo, cioè se si tratta di terrorismo non statale si tratta di terrorismo e quindi c'è questo stigma pesantissimo e anche questa manipolazione dell'opinione pubblica per cui diciamo che il terrorismo non statale diventa crea il panico assoluto e invece quello statale viene normalmente portato avanti, accettato, magari si fa così, c'è qualche lacrima di coccodrillo, qualche lacrima umanitaria di coccodrillo magari da parte di qualche politico così, però di base viene mantenuto, si viene legittimato ma accettato tranquillamente insomma. Quindi nel caso di cosiddetto terrorismo non statale si può essere considerati terroristi persino a prescindere dall'elemento del terrore, poiché si valorizza la finalità di destabilizzazione del sistema politico statale o di contrasto di una sua specifica decisione. Invece nel caso di terrore di Stato, cioè di terrore quindi esercitato attraverso i militari sulla popolazione, ad esempio i bombardamenti aerei e sistemi di questo tipo, non cioè anche le azioni più efferate non vengono considerate automaticamente terroristiche in quanto bisogna dimostrare che in base a queste convenzioni che lo stato di terrore fosse il movente principale dell'azione militare, ecco, quindi questa sì, e non un effetto collaterale. Quindi in base a questo discorso qua appunto anche lo sterminio di Gaza viene tollerato, se non supportato, anzi supportato, con questa cosa della lotta ad Hamas, no? Quindi della lotta contro un gruppo terroristico e della legittima difesa, della difesa, del diritto alla difesa di uno Stato che è stato attaccato, diciamo, da azioni di guerriglia. Un po' di musica e continuiamo. Ormai presento anche questa band, che sono i brani tutti attaccati, non c'è un attimo di sosta. Loro sono i giapponesi Beyond Description, da un loro album uscito in Italia che si chiama A Road to a Brilliant Future. Beyond Description. Sì, dunque 21.03 di giovedì 18 settembre, siamo sempre su Zardins Magnetics. Beh, io vi ricordo che è una trasmissione autogestita che ci ospita Radio Onde Furlane qua a Udine, e magari non avevate dubbi che era Zardins Magnetics, visto così l'apparato musicale particolarmente che pesta stasera. E cerchiamo un po' di concludere, diciamo, questo la lettura, il commento di questo approfondimento sul concetto culturale giuridico di terrorismo. Allora, l'ultimo paragrafo si intitola "Al di fuori dello Stato il nulla". E perché si intitola così? Perché appunto praticamente attraverso tutta questa evoluzione che abbiamo visto, lo Stato prende il posto della popolazione, quindi gli atti violenti e indiscriminati risulteranno quelli diretti contro gli apparati istituzionali. Però diciamo, con questo rovesciamento, insomma, emerge anche una, l'esigenza di una società che rappresenta un tutto organico e monolitico, cioè di una società, come dicevo prima, che coincida con lo Stato. Quindi in pratica lo Stato diviene principio di intelligibilità di ciò che è, ma anche di ciò che deve essere. Lo Stato diviene fondamentalmente l'idea regolatrice di quella forma di pensiero, di riflessione, di calcolo e di intervento che prende il nome di politica. Quindi politica e Stato diventano la stessa cosa. Quindi politica intesa come forma razionale dell'arte di governo. E poi vabbè, ci parlano i compagni di, del mito fondante dello Stato, del giusnaturalismo, che si afferma poi proprio, diciamo, mentre contemporaneamente alla filosofia meccanicistica. E insomma, in tal modo appunto questa unione, questa simbiosi tra il concetto di Stato e il concetto di società, di popolazione, attraverso questa cosa, insomma, un regicidio o una qualsiasi azione contro delle personalità o delle strutture istituzionali non viene più, non è più considerata come diretta a terrorizzare unicamente i regnanti e le classi dominanti, come sarebbe nelle intenzioni appunto di chi compie il gesto regicida e quindi sovversivo della monarchia in questo caso, no? Ma e quindi di chi, insomma, vuole un cambiamento radicale della società, rivoluzionario della società, ma viene considerato come un atto terroristico indiscriminato, in quanto secondo questo discorso al di fuori dello Stato il nulla, regnanti e classi dominanti rappresentano e coincidono con l'intera società, e questo è una, sì, una deriva, diciamo, che anche con tutto il discorso delle politiche di sicurezza, della creazione del nemico, e del nemico interno, e appunto e con il discorso della guerra al nemico interno oltre che al nemico esterno, stanno perfezionando sempre di più. Però io volevo anche per rompere questa cosa qua, nel senso, volevo tornare a un contributo di Alfredo Cospito che è stato pubblicato su Bez Motivli. Dunque, era un suo scritto di aprile 2021. Lui si trovava ancora in alta sicurezza a Ferrara quando ha scritto questo articolo interessante. Allora lui prendeva spunto, l'articolo si intitola "Su streghe, terrorismi ed altre questioni". Alfredo aveva appena letto l'opuscolo "Donne al rogo, la caccia alle streghe in Europa, l'enclosure e l'ascesa del capitalismo", e ci dice: mi sono imbattuto in un interessante parallelo tra stregoneria e terrorismo. I crimini di stregoneria è in sé, lui cita dall'opuscolo, i crimini di stregoneria in sé erano vaghi e indefiniti in un modo che ricorda l'utilizzo attuale dell'accusa di terrorismo, un termine vago ma molto potente che serve per collocare una persona al di là del resto dell'umanità e quindi al di là di qualunque aspettativa di ricevere un trattamento umano. La vaghezza stessa dell'accusa, il fatto che fosse impossibile provarla, ma che allo stesso tempo evocasse il massimo dell'orrore, significava che poteva essere utilizzata per punire qualunque forma di protesta, generare sospetto perfino nei confronti dei più ordinari aspetti della vita quotidiana. La prova di tali crimini è così oscura e difficile che nemmeno una strega su un milione verrebbe accusata o punita se la procedura fosse governata da regole ordinarie. E ci dice Alfredo Cospito: mi sono chiesto più volte se per opporsi alla criminalizzazione bisognasse necessariamente demonizzare un termine come quello di terrorismo, adattandosi alla neolingua dominante e rinnegando il nostro passato, nella speranza un po' ingenua e vigliacca che la repressione ci risparmi. Non sarà invece che così facendo l'unico risultato che otterremo sarà quello di indebolirci? Siamo sicuri che il modo migliore di opporsi alla criminalizzazione del nostro movimento sia quello di negare il nostro terrorismo? Non sarà che in questo modo regaliamo autorevolezza ai tribunali della democrazia totalitaria? E appunto con questo, articolo, insomma, molti di noi sanno che Alfredo Cospito non condivideva anche questi slogan terrorista è lo Stato, eccetera, no? Proprio perché non crede, insomma, a questa, già in questi anni qua c'erano, insomma, la riflessione portava a questa non coincidenza, cioè un po' anche a questo dire ci appropriamo di un termine denigratorio e ce ne appropriamo in quanto le azioni, cioè la violenza rivoluzionaria non può essere paragonata appunto alla violenza di Stato, che quella sì è indiscriminata, nel senso che colpisce nel mucchio, no? Anzi, più colpisce nel mucchio meglio è, perché così ottiene l'effetto di terrorizzare la popolazione, di governarla attraverso il terrore la popolazione. Invece la violenza rivoluzionaria colpisce le fonti dell'oppressione, gli artefici dell'oppressione, quindi può essere anche una vendetta, perché non è che ci sono solo azioni rivoluzionarie organizzate, può anche essere una vendetta individuale, puramente individuale, ma l'obiettivo non è generico, insomma, le intenzioni non sono appunto di colpire in maniera così nel mucchio. E appunto, quindi Alfredo Cospito portava avanti questo discorso, insomma, di critica all'utilizzo del termine terrorismo, terrorista e lo Stato. Però lui in questo articolo qua ci dice anche, a proposito del fatto di riappropriarsi, diciamo, di termini denigratori o comunque di termini accusatori, ci fa l'esempio appunto delle donne, no? Cioè lui dice: le donne che sono come prime oppositrici e vittime nello stesso tempo del capitalismo prendono atto, dopo tre secoli dalla caccia alle streghe, prendono atto di questo dato di fatto e urlano in faccia al mondo: tremate, le streghe sono tornate. Nel nostro, quindi lui dà in qualche maniera la parte da lì, insomma, parte da questa, da questo fatto della, del femminismo che si riappropria della, del concetto di strega cambiandolo di segno. Dice: nella nostra storia ci siamo appropriati spesso con orgoglio di parole che avevano originariamente l'intento di demonizzarci, ritorcendole contro il potere stesso, facendole nostre. Alle origini della fondazione stessa del nostro movimento, la parola anarchia, usata in maniera infangante contro di noi, fu sdoganata da Proudhon, che la fece diventare il nostro, tra virgolette, marchio di fabbrica. E poi ci dice... l'importante è non colpire nel mucchio, cioè, scusate, è non colpire nel mucchio, per questo il concetto di strage mi è ostico e non lo accetto, perché nella vulgata processuale vuol dire colpire indiscriminatamente e dal punto di vista etico non è accettabile per un anarchico e un'anarchica, almeno per quanto riguarda la mia anarchia. Su questa questione, insomma, della strage, che anche viene utilizzata in maniera vigliacca, questa accusa di stragismo contro i compagni e le compagne anarchici, molti compagni che sono dentro si sono espressi, insomma, anche Juan ha scritto diverse cose su questa faccenda delle accuse, dell'infamia delle accuse di strage. E poi dice, no? Un'altra cosa che dice, e mi viene in mente qui il discorso di prima del regicidio, che il regicidio non è un assassinio contro, cioè un assassinio della popolazione, il regicidio è l'assassinio di un re e quindi di un governante, no? E lui dice: nello stesso modo i brividi quando sento i compagni e le compagne accusare i poliziotti di essere assassini, come se l'assassino in quanto tale fosse per forza sinonimo di infamità. Ritorniamo al regicidio. E comunque Sappiamo insomma che Alfredo Cospito è un ha sempre rivendicato le sue, cioè la pratica della violenza politica, insomma, non indiscriminata come pratica sua, ha rivendicato le azioni che ha fatto, e quindi insomma la sua posizione e la sua coerenza non può essere assolutamente messa in discussione. E in questo dibattito, appunto, che si sviluppava nelle pagine di Mezmotivni nel 2021 e oltre, Alfredo Cospito tira fuori anche il discorso, i contributi di altri compagni. Sì, e dice, insomma, bisogna porsi il problema, il problema di questa questione del terrorismo, cioè non solo vedere, ecco, il concetto di terrorismo come un concetto giuridico e quindi come una accusa gravissima che ti mette al bando, dalla quale ti devi difendere dal punto di vista legale. Ovvio che ti devi difendere anche dal punto di vista legale nei tribunali, ma questo non significa soprassedere o fare sconti o, diciamo, prendere scappatoie o scorciatoie, così, o non parlare in maniera chiara e limpida. E difatti lui ci dice, è importante affrontare queste problematiche senza retorica e con chiarezza, e nomina a questo proposito il contributo di un altro compagno, di Stecco, che aveva scritto su I giorni e le notti un articolo. Stecco è su un'altra, ha una posizione diversa da Alfredo Cospito, si è sviluppata, insomma, tra i due questo dialogo attraverso le pagine di Mezmotivni, e appunto vengono citate queste affermazioni di Stecco. Lui dice: qui non si tratta, e parlava del rapporto tra propaganda e repressione, parlando di Croce Nera anarchica. Qui non si tratta di giudicare le parole più o meno spinte, provocatorie, dei redattori, bensì il procedere della repressione nell'ambito della nostra propaganda, ed in particolare di alcune procure. Le domande che spesso ci si pone, su cui ci si confronta, riguardano il farsi più scaltri, cioè raggirare il controllo poliziesco velando le nostre parole, cosa storicamente fatta, cioè parliamo della storia dell'anarchia, fatta dai compagni per evitare i sequestri di interi numeri di giornali. L'adoperare un linguaggio più criptico che solleciti la fantasia senza andare in modo esplicito al nocciolo delle questioni. Oppure il far sì che il nocciolo delle questioni sia dibattuto un po' da tutti, evitando così che chi già si espone rischi di essere isolato. Questo per la sua schiettezza. E allora, far sì che il nocciolo delle questioni sia della questione, anche della questione della, quindi della violenza rivoluzionaria, sia dibattuto un po' da tutti, evitando così che chi già si espone rischi di essere isolato per la sua schiettezza. E alla faccia di, ci dice di nuovo Alfredo Cospito, alla faccia di possibili criminalizzazioni, temi come terrorismo e sabotaggio, propaganda del fatto e violenza rivoluzionaria, internazionalismo d'azione, dovrebbero essere dibattuti da tutti e da tutte. La soluzione non consiste nel farsi criptici, ma nell'affrontare con schiettezza questi argomenti di continuo, senza paura, perché se tutti sono terroristi, nessuno è terrorista. Molto più difficile per il potere fare una cernita, costringendo ad arrestare, se ci riesce, solo chi concretamente viene colto sul fatto. Se tutte le donne si fossero dichiarate streghe, come trascinarle tutte al rogo? Un modo utopistico di ragionare, ma indubbiamente una soluzione possibile. E questi pensieri, insomma, espressi da Stecco ed Alfredo Cospito, così, cioè, mi fanno venire in mente l'importanza, relativamente alle lotte contro il mondo guerra, contro il militarismo, alle lotte contro la repressione, alle lotte contro la nocività, l'importanza di non di tenere insieme tutte le forme di lotta, cioè di non creare discriminazioni o criminalizzazioni, o di non mettere al bando, tenere lontane, diciamo, perché tutte le forme di lotta sono importanti. E parlando poi di Palestina, è importante ribadire in questo momento qua sì, devastante, insomma, con tutto quello che sta succedendo, ormai anche senza, vabbè, ascoltavo stamane di dichiarazioni ufficiali di ministri israeliani sul mettere a profitto, sull'affare praticamente Striscia di Gaza, e sia importante tenere presente, ribadire, lo si diceva anche con le compagne e compagni dell'Aquila, questa solidarietà verso i combattenti, cioè non assolutamente non farsi, ma è importante che al di là di noi anarchici, diciamo, ma è importante secondo me che il movimento solidale con la Palestina metabolizzi e capisca questa, l'importanza della solidarietà verso la resistenza palestinese, le varie forme di resistenza palestinese, perché ce ne sono tante, ci sono tanti gruppi, e non si spaventi, diciamo, tornando indietro magari su concetti più riformisti che sì, mettono al bando, no, in qualche maniera la resistenza. E su questo appunto mi collego un attimo, poi magari diremo, insomma, gli appuntamenti, così comunque sì, mi ricollego al discorso di Anan Ali e Mansour, e quindi a questo processo, insomma, infame ai loro danni, e sì, processo appunto che viene portato avanti proprio perché, in quanto non si vuole riconoscere che i palestinesi hanno diritto a lottare contro l'occupante colonialista, hanno diritto a lottare con tutti i mezzi che possono utilizzare. Bene, scusate, ma prendo io un attimo la parola, in modo che do anche gli appuntamenti della settimana. Sono giorni intensi, quindi ci sono due annunci fondamentalmente da dare, fondamentali. Il primo per Udine, anzi tutti e due Udine. Il primo, più cronologicamente, è sabato 20 settembre. Alle 16.30 una discussione, assemblea all'aperto, diciamo, in piazza Primo Maggio, 16.30, discussione a partire dall'opuscolo Police Abolition, corso base per l'abolizione della polizia. È un'iniziativa che promossa dall'assemblea No Decreto Sicurezza e No Zone Rosse di Udine. E appunto si partirà da questo opuscolo tradotto da, insomma, l'originale americano e statunitense, E ecco, con poi appunto andremo a parlare comunque anche di attualità. Secondo appuntamento invece è più avanti, venerdì 26 settembre, ancora una volta Udine, ci sarà anche qui una iniziativa di solidarietà però con i prigionieri, in sintesi con Anan Yaesh, di cui si parlava poco prima, e proiezione del documentario sul processo ad Anan Ali e Mansour. È in corso appunto al Tribunale dell'Aquila le udienze finali del primo grado per questa accusa di articolo 270, insomma, di associazione terroristica. Allora sarà lo spazio autogestito la proiezione, questa volta è promosso da noi, dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e Repressione. Come ho già detto, venerdì 26 settembre, spazio autogestito in via De Rubeis dalle ore 20:30, Colpevoli di Palestina si intitola l'iniziativa, è un'iniziativa promossa, diciamo, a livello nazionale, italiano, e dei giovani palestinesi, ecco. E ultima, posso ancora dire questa, che ci sarà naturalmente anche lunedì uno sciopero generale promosso da un sindacato di base che è USB. Nella nostra zona ci sarà un presidio al varco 4 del porto, che è zona Campi Elisi, dalle ore 10:30. A Trieste, sì, c'è il porto, no? È importante. On the receiving end. Bene, sfumo questa band, sono i Propagandi, band canadese, da un loro album datato 1996 che si chiama Less Talk, More Rock. Quindi sfumo perché siamo proprio ai termini di questa trasmissione, che ripeto è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane. Ogni giovedì, anche oggi 18 settembre 2025, e ricordo che l'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste è quella che dà vita a questo programma. Quindi, come sempre, i nostri contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica, potete scriverlo alla mail liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendo in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Ricordo anche che questa trasmissione, ma anche tutte le precedenti delle scorse settimane, potete andare a riascoltarle e ovviamente dopo aver trovato il blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, quindi l'appuntamento è il prossimo giovedì. Salutiamo tutti e anche chi ci ascolta sulla web radio Radiazione, domani venerdì dalle ore 17. Ciao a tutti, vi lascio con un ultimo brano per questi Propagandi. Ciao a tutti. Our city seems to function quite the same. Swimming ghettos under one big mud makes them easy to contain. So the upper middle class is sleep. Convince themselves that trickle down will solve this poverty. Murderers walk our streets. The weapons of their pandemic policies. We are campaigns that try to spoil the war against the lazy shifts and populations. the opinion